consiglio di amministrazione, tensioni sulla banca unica. Questa è l'analisi che c'è nella prima pagina di Finanza Mercati del Sole 24 Ore di oggi su quello che sta succedendo in questo grande gruppo bancario. Siamo alle segnalazioni conclusive. Vi voglio segnalare che quote rosa per i capi, la rivoluzione tedesca comincia dai telefoni. È il Corriere della Sera che annuncia che Deutsche Telekom ha deciso che entro il 2015 il 30% delle posizioni dirigenziali del gruppo in tutto il mondo sarà occupato da donne. Delle vere e proprie quote rosa. Scrive il Corriere, la fissazione delle quote, se è questa la strada giusta, è un tema molto dibattuto, una questione molto discussa. Ci sono paesi come i paesi scandinavi dove è stato fatto, però si è visto che in realtà sì, le donne sono più impiegate, ma non è che questo ha portato per esempio a ruoli per forza dirigenziali, ruoli di comando e anche a stipendi più alti necessariamente per le donne. Però questa è la decisione di Deutsche Telekom: entro il 2015 il 30% delle posizioni dirigenziali saranno di donne, e l'azienda tedesca ha detto: così faremo, anche reclutando talenti nelle università, selezionando persone con questo obiettivo. 2015, 30% dei dirigenti in tutto il mondo saranno e dovranno essere donne. Infine, Olindo e Rosa soffrono di psicosi cronica. Domani inizia l'appello a Rosa Bazzi e Olindo Romano. Ci sono gli psichiatri che vogliono rivedere la sentenza di condanna per il massacro di Erba, puntando alla infermità mentale. Lo segnala Repubblica a pagina 23. Ci fermiamo, votate il sondaggio, i parlamentari dovrebbero non guadagnare nulla oltre all'indennità parlamentare. Oh, siamo alle 8 e 16 minuti, ritornati in diretta con 24 Mattino. E allora il momento dell'economia. Con le stampanti e multifunzioni a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta... Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Mi sei allegro stamattina, ti piace l'argomento che fai dopo nel sondaggio. I redditi dei parlamentari, no, ma sono sempre allegro. Sono sicura che però il tuo sondaggio esploderà. Eccoci qua, di plebiscito, esatto. Un po' è così. Io mi occupo di un tema invece molto più modesto, però molto divertente, in molto carino. Termini economici? Termini economici, per modo di dire, non vorrei offendere l'ospite che questa mattina è con noi. No, per la verità il tema che trattiamo stamattina può sembrare un po' pittoresco, però da una piccola notizia di cronaca economica abbiamo scoperto che si può parlare e raccontare dell'esistenza di un'industria enorme per il nostro paese, con la quale ognuno di noi, e dico davvero ognuno di noi, si imbatte tutti i giorni, direttamente o indirettamente, consapevolmente o meno, soprattutto nei luoghi, nei più diffusi luoghi di passaggio, l'aeroporto, la metropolitana, la stazione ferroviaria, gli ospedali. Parliamo delle macchinette del caffè, per dirla in termini molto semplici, in realtà parliamo dei distributori automatici di bevande, di merendine, snack, ma di tanto altro ancora. Abbiamo trovato questo dato, che è stato diffuso nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio di Milano: per gli italiani, boom di acquisti a gettoni, 2700 imprese del settore, una crescita dell'11,6% in un anno, crescono soprattutto alcune regioni. Uno spaccato molto interessante. Noi vogliamo anche un po' sfatare il luogo comune del distributore automatico a moneta come esclusivo mezzo di distribuzione e produzione di snack e bevande, perché intanto oggi con queste macchinette si può acquistare davvero di tutto, persino abbiamo scoperto ieri bouquet di fiori, jeans, yogurt e tanto altro. Sono in corso di distribuzione e di diffusione anche nel mondo delle scuole, per far cambiare un po' anche abitudini alimentari ai bambini. Insomma, un mondo che cresce e che forse è bene conoscere. Allora stamattina ci aiuta Marco Monaco, presidente di Venditalia, che è la principale fiera internazionale dedicata al settore dei distributori automatici. Monaco, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno Deborah, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro diciamo subito che la vostra fiera è imminente, perché si svolgerà a Milano alla fine di aprile? Assolutamente sì, 28 aprile, 1 maggio, è un'occasione straordinaria, seppur la fiera è dedicata agli addetti ai lavori, per conoscere meglio questo mondo e le sue straordinarie caratteristiche. Non rimane che invitare tutti voi a visitarla a Milano City, ripeto, 28 aprile, primo benissimo maggio. Abbiamo dato allora anche questa indicazione per chi si incuriosisse relativamente un po' di più relativamente alla vostra attività. Allora, noi abbiamo detto prima, la troviamo ovunque. Io potrei raccontare delle lunghe file che si formano alla macchinetta del caffè del Sole 24 Ore, perché ovviamente è il nostro momento preferito di pausa. La troviamo ovunque, dicevamo, ma spesso trattiamo con totale disinteresse questo servizio che ha tutto un mondo dietro: indagini di marketing, controlli qualitativi rigidissimi, visto che si tratta di distributori che appunto distribuiscono alimenti, un settore da 3 miliardi di fatturato annuo, 15 milioni almeno di persone che ogni anno si avvicinano occasionalmente o con una cadenza regolare alla distribuzione automatica. Ho dato qualche cifra sbagliata, Monaco? Noi stimiamo siano 22 milioni le persone che si avvicinano abitualmente ai distributori automatici. Stiamo parlando, tanto per darle un dato suggestivo, di 29 milioni di consumazioni ogni giorno che gli italiani fanno ai distributori automatici. È un dato veramente importante. Consideri che ci sono 18.000 automezzi che ogni giorno solcano le nostre strade per distribuire i prodotti nei distributori. La caratteristica di questo settore è che la distribuzione automatica che va dal cliente e non viceversa, cosa che normalmente succede. Un dato secondo me significativo nasce proprio dall'analisi della Camera di Commercio. La distribuzione automatica, come diceva lei, è cresciuta perché la distribuzione automatica è lo specchio del tempo. Noi oggi come consumatori desideriamo ottenere servizi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Questa è la distribuzione automatica. Se lei considera che, tanto per darle un elemento suggestivo, all'aeroporto di Stoccarda è stato installato un distributore che vende lingotti d'oro. Certo, la distribuzione automatica non è quella, però sicuramente è il sintomo dei tempi che corrono. E chi va a comprare a quel distributore i lingotti? Di mattina presto uno si alza, passa lì all'aeroporto di Stoccolma e si va a fare un acquisto di questo Stoccarda, tipo? Di Stoccarda, mi scusi. Guardi, sicuramente è una provocazione e quindi non credo che ci siano dei volumi importanti da quel punto di vista, però è la dimostrazione di come il marketing sempre di più si accosta verso la distribuzione automatica, che esce dalla logica tradizionale dell'omino delle macchinette e diventa sempre di più un'industria che assume straordinaria dignità all'interno del E il vostro peraltro, esatto, uno straordinario anche osservatorio per quello che riguarda i consumi. Poi parleremo anche delle accuratissime indagini di marketing che effettuate prima di posizionare determinati prodotti all'interno di determinati distributori, magari posizionati in determinati punti delle città, ma è anche una cartina di tornasole molto importante per quello che riguarda lo stato dell'occupazione del paese? Assolutamente sì, consideri che in questo momento i numeri della distribuzione automatica vengono fatte nelle imprese. Fino a un po' di anni fa lavorare in delle zone industriali remote era un handicap fortissimo. A Milano dicono la schiscetta, ecco, ci si portava la schiscetta o il thermos da casa se si voleva avere momenti di consumo. La distribuzione automatica ha risolto tutto questo, ha dato a molti l'opportunità di poter favorire di momenti di consumo di ogni genere, e questo credo che sia un servizio sociale importante da sottolineare, il tutto ad un prezzo estremamente competitivo ed interessante. Ha parlato, sì. Lei mi domandava della cartina di tornasole sull'occupazione. La distribuzione automatica rappresenta. Sicuramente i momenti di consumo avvengono nell'intervallo lavorativo. Se, come purtroppo è accaduto per effetto di questa crisi, le ore lavorate sono inferiori o le persone occupate sono inferiori, la distribuzione automatica immediatamente si accorge di questa situazione e registra flessioni o incrementi figlie della situazione oggettiva. Nel 2009 la distribuzione automatica ha avuto un piccolo calo percentuale rispetto alle sue erogazioni. I dati verranno pubblicati appunto nella giornata d'apertura del 20 di cui citavamo prima. quella sarà l'occasione per fare il punto. Però le attività di marketing hanno consentito di recuperare abbondantemente questa situazione. Monaco, i primi distributori automatici che si sono visti in Italia li ha portati nel 1953 la Coca-Cola, vendevano esclusivamente la notissima Bibbia. Li hanno portati Marinzi, in realtà. Esatto. I primi distributori sono arrivati con la Liberazione. È stato una straordinaria evoluzione culturale. Poi gli imprenditori italiani, che sono sempre attenti al nuovo, sono stati capaci di cavalcare questo tipo di situazione e sono riusciti, andando oltre, a diventare, questo è un dato che io cito con particolare orgoglio, l'Italia è il primo produttore mondiale di distributori automatici e le imprese italiane esportano il 70% della loro produzione. Noi esportiamo in sostanza la nostra tecnologia in questo settore. Assolutamente sì, il Made in Italy non è solo il fashion, è anche una tecnologia che al grande pubblico può apparire meno importante. Allora, dai Marines che hanno portato la Coca-Cola nel 1953 in Italia fino ai lingotti di Stoccarda, c'è tanta strada. Le volevo chiedere quali sono, per esempio, i distributori più originali che abbiamo nel nostro paese. Parlavamo di jeans, del bouquet di fiori. Io non li ho mai visti, alcuni miei colleghi mi assicurano di sì. Qual è veramente la distribuzione più originale che abbiamo? Ma guardi, sicuramente oggi ci sono tutta una serie di prodotti che vengono distribuiti attraverso il distributore automatico e che non sono soltanto alimentari, di cui magari poi ci soffermeremo un attimo, ma dal parafarmaceutico. Non ho molto tempo, un minuto e mezzo, però se ci riusciamo, sì. Dal parafarmaceutico, i sistemi di prevenzione e sicurezza, i distributori di libri sono presenti in stazioni metropolitane, DVD, fiori, ci sono per esempio in diversi ospedali per chi all'ultimo momento si è dimenticato di omaggiare magari una signora che ha avuto un bambino. I distributori automatici sono accanto ai clienti. L'ultima cosa, Monaco, l'unico problema è che magari, ecco, siamo in metropolitana, abbiamo una voglia insopprimibile di caffè, mettiamo dentro la monetina, la macchinetta è rotta, ci ruba i soldi, a chi ci rivolgiamo per riaverli indietro? Guardi, la filosofia dei gestori, così si chiamano coloro i quali gestiscono i distributori automatici, è quella di rimborsare sempre il cliente. Sulle macchine sono sempre presenti dei numeri di telefono a cui fare riferimento, fatelo senza difficoltà, perché i soldi che per qualche motivo tecnico la macchina vi ha tenuto vi vengono sempre rimborsati. E come facciamo ad essere sicuri che il caffè che ci viene fornito, e magari ovviamente noi abbiamo voglia di prenderlo assolutamente fresco, sia frutto, sia il prodotto di acqua fresca, di un rifornimento recente della macchina? Allora, innanzitutto i distributori sono alimentati con acqua di rete, quindi l'acqua non stagna e viene costantemente rifornita dall'acquedotto. Secondo, i caffè vengono, le macchine vengono visionate quasi quotidianamente, quindi il controllo e l'igiene sono assolutamente garantiti. Per chi ne vuole sapere di più, c'è addirittura un libro in circolazione, si chiama Pausa Caffè, lo avete edito proprio voi, Monaco. Io devo salutarle, intanto grazie, così ho raccontato un po' quello che succede in questo mondo, in modo tale che se ci arrabbiamo con una caffetta, perché con una macchinetta, perché ci ruba 50 centesimi e non ci dà il caffè, non la prendiamo a calci, perché c'è tutto un mondo dietro che è assolutamente degno di tutto il massimo rispetto. Buona grazie giornata, Deborah, arrivederci. A tutti. Arrivederci Alessandro. Caffè per tutti, anzi io vado mentre tu rimani qua. E certo. Ristrutturazioni edilizie, boom del 36% nel 2008, rifacciamo il punto della situazione alle 12 a Salva Danaio, ciao. Allora, i redditi dei parlamentari, il più ricco, il più povero, poi vabbè, insomma, quello che guadagna di meno, andiamo a fare un po' i conti e vi chiediamo, secondo voi un parlamentare dovrebbe lasciare tutti gli altri lavori, vivere di politica, vivere di quell'indennità? Questo è il nostro sondaggio, radio24.it per votare, oppure 800 24 00 24 per intervenire, siamo qui. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: Silvio Berlusconi è indagato a Trani, il reato ipotizzato concussione e minaccia ai danni del garante delle comunicazioni, avrebbe fatto pressioni per far chiudere alcune trasmissioni sgradite in Rai. Il premier dice un'inchiesta grottesca. E intanto non torneranno i talk show in Rai in campagna elettorale, lo ha deciso il consiglio di amministrazione dell'azienda per la par condicio. Se ne occuperà tra l'altro Oscar Giannino alle ore 9. Infine, per il calcio, stasera in Champions League l'Inter cerca la qualificazione ai quarti contro il Chelsea. Si parte a Londra dal 2-1 dei nerazzurri all'andata e Mourinho ha lasciato a casa Balotelli per scelta tecnica. Allora, 8:34 minuti, i redditi dei parlamentari. Andiamo un po' a curiosare nei portafogli dei nostri rappresentanti politici. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La domanda che vi facciamo è questa: secondo voi per legge un parlamentare dovrebbe rinunciare ad altre indennità? Dovrebbe guadagnare solo e vivere di quello, di politica, dell'indennità parlamentare, che poi si dice non è neanche bassa, eccetera, tutte le questioni della casta, eccetera? Allora, intanto su radio24.it state votando, io era presumibile, il 90% di voi dice sì, è così, bisognerebbe vivere solo di quello, rinunciare a tutto il resto. Ne vogliamo parlare intanto con un professore che ci parla dagli Stati Uniti, lo ringrazio perché l'abbiamo letteralmente sbrandato, Antonio Merlo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Antonio Merlo insegna economia alla Pennsylvania University, tra l'altro ha fatto una ricerca sulle carriere, i redditi dei parlamentari italiani della Repubblica dal 48 a oggi, anche in confronto con quelli americani. Sarà presto un libro anche in Italia, uscirà ad aprile, si intitolerà Classe dirigente, l'intreccio tra business e politica. Sono le 3:30 di notte, grazie per essere con noi. Qui in Italia c'è Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Buongiorno Sergio, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Così buongiorno. Come voglio salutare un vecchio leone della politica, Alfredo Biondi, avvocato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, so che è un po' raffreddato, ma insomma. Una voce pessima. Vabbè, ma siamo da lei tra poco. Professor Merlo, intanto, insomma, scopriamo Berlusconi. Oggi Libero pubblica tutto, dal primo a quello che guadagna di più all'ultimo. Berlusconi è primo, Santo con 23 milioni di euro, Santo Versace 5 milioni, Antonio Angelucci, poi una folta schiera di avvocati, anche gli avvocati del Presidente del Consiglio ci sono al quarto e quinto posto, Ghedini, Pecorella. In America sarebbe possibile? Cioè come funziona lì? Beh no, la situazione in America è molto molto diversa, perché nel momento in cui una persona viene eletta come rappresentante al Parlamento americano non è possibile il cumulo dei redditi, quindi il cumulo dei redditi ha una forma un po' anomala, dato che ad esempio i redditi dei parlamentari americani sono assolutamente simili a quelli dei parlamentari italiani in termini di quanto prendono come salario per essere parlamentari, ma appunto in America il cumulo dei redditi non è possibile. E questo perché? Cioè voglio dire, perché si vuole evitare che cosa? Un possibile intreccio di interessi, o perché chi vive di politica fa questo lavoro e deve vivere di politica? No, chiaramente esistono diversi motivi per cui il cumulo dei redditi non ha molto senso, ma innanzitutto il primo in principio è il problema del conflitto di interessi, che è stabilito in modo molto preciso nella Costituzione americana e nelle leggi americane. È facile immaginare che se una persona faccia il mestiere di consulente sia abbastanza problematico che alla mattina faccia delle leggi e poi al pomeriggio faccia delle consulenze per informare i propri clienti su come comportarsi in conseguenza di queste leggi. Il secondo problema è che il mestiere politico, comunque il mestiere parlamentare, è un mestiere a tempo pieno, e quindi necessariamente nel momento in cui una persona abbia un'altra attività quale fonte di reddito al di fuori dell'attività parlamentare, chiaramente poiché il numero di ore disponibili nella giornata è fisso, se uno dedica il proprio tempo a un'attività extraparlamentare necessariamente ne va a discapito dell'attività parlamentare. Ci sono anche studi infatti che mettono in correlazione quanto è il guadagno dalla professione esterna dei parlamentari e quanto è il tasso di assenteismo in aula. Le chiedo anche questo e vorrei andare anche a Sergio Rizzo. Spesso si sente dire, Sergio, anche commentando la ricerca che il professor Merlo ha fatto, io sono in Parlamento per spirito di servizio, ma quanti soldi ho perso, perché se facessi il mio lavoro guadagnerei molto di più. Ecco Sergio, questo è una cosa vera, oppure è un affare fare politica, un affare proprio in termini di redditi? Diciamo che è diventato un affare, e proprio la ricerca del professor Merlo l'ha dimostrato con chiarezza. I parlamentari di oggi sono mediamente meno istruiti in termini di titolo di studio di quelli del 1900, che erano in Parlamento nel 1948, però sono molto più facoltosi, diciamo così. E il motivo è proprio questo, il motivo è che c'è una grande quantità di parlamentari che continuano tranquillamente a svolgere la loro professione, naturalmente ottenendone un beneficio, perché un principe del foro che già in condizioni normali e fa l'avvocato grido, e trovandosi a fare parlamentare naturalmente inevitabilmente ottiene benefici. Adesso poi l'avvocato Biondi ci spiegherà, penso, no? Ma chissà, magari basta guardare, basta guardare le dichiarazioni dei redditi, insomma. Io noto che gli avvocati sono sempre ai primi posti. Gli avvocati, è vero, ci sono, come detto, Pecorella al quinto posto, Ghedini, sono due di Berlusconi, per carità siamo in par condicio, però insomma è cronaca, non si può dire che gli avvocati di Berlusconi non abbiano lavoro da svolgere. Donato Bruno, Giulia Bongiorno, che è anche una penalista, la vediamo spesso alla Camera, ma anche, non so, dividersi in importanti processi, il processo a Sollecito, quello di Perugia, il processo Andreotti, insomma. E qui... Avvocato Biondi, siamo al vecchio leone della politica. Avvocato perché non è più in Parlamento. Io sono lieto anche di essere avvocato, come lo sono sempre stato, e credo che ci sia del vero nell'osservazione tanto del professor Merlo, che è diritto, che la somma di due fattori economici può certamente dare un vantaggio, però mi permetto anche di dire che l'esperienza, la qualità, la professionalità, la non subordinazione ai vincoli di partito, del resto un parlamentare, dice, lo dice la Costituzione, rappresenta la nazione senza vincolo di mandato, se un parlamentare è libero perché l'autonomia economica e anche intellettuale gli consente di essere non legato alla disciplina rigorosa, stretta, qualche volta anche asfissiante, delle regole di partito, è secondo me più libero. Perlomeno io posso dire, se posso parlare di me, che non interessa nulla a nessuno, ma soltanto per spiegare come la penso, se io quando nel 68, allora avevo 39 anni, e mi si propose nel Partito Liberale, dove era difficile essere eletti dato il numero, diciamo, degli elettori che aveva l'intelligenza di distinguere rispetto al resto, e accettai, ma dissi: ma guardate, io l'avvocato non continuo a fare, cioè secondo lei questo è l'avvocato senza essere un assenteista. Allora questo è interessante, cioè Rizzo dice, Biondi, è un sintomo di libertà, se io posso fare l'avvocato e quindi avere un reddito, non lasciare l'avvocato, posso essere anche più libero e quindi meno vincolato alle briglie strette dei partiti. Dunque, l'avvocato Biondi però non si occupava di faccende che riguardavano il Presidente del Consiglio o di altre cose simili, perché qui il punto qual è? Che questi avvocati di cui noi stiamo parlando non soltanto, diciamo, sono in testa alle classifiche dei redditi perché continuano a svolgere la loro attività, ma influiscono pesantemente sulla attività legislativa. Questo è il problema. Il problema è che lì c'è un conflitto di interessi clamoroso, cioè non si può fare le leggi e poi andarle a applicare, no? E questo è il punto. Ora, al di là delle considerazioni che riguardano un po' tutti, che riguardano i medici, che riguardano i consulenti, che riguardano financo appunto gli imprenditori, c'è una questione specifica che riguarda chi si occupa proprio delle professioni giuridiche, ma questo vale anche per i magistrati in qualche modo. Beh, certo. No? Guardiamo per esempio la Commissione Giustizia del Senato. La Commissione Giustizia del Senato si è occupata recentemente della riforma della professione forense, poi la cosa non è andata in porto, ma comunque ci stava lavorando. Ora, a me sembra piuttosto singolare che una commissione composta da 25 componenti, di cui 14 avvocati, scriva le regole della professione forense. Cioè, E questo è il conflitto di interesse a cui faceva riferimento anche il professor Merlo. Senta, professor Merlo, però molti ci dicono: beh, però negli Stati Uniti diciamo essere eletti costa moltissimo, nel senso che ci scrivono via sms al 349-238-6666. C'è gente che investe molto, le lobby che spendono per conquistare un seggio, e quindi è un grosso investimento, è un qualcosa che forse frutta già così. Per cui dice: cosa venite a farci la morale voi americani? Poi lei è italiano, immagino. No, assolutamente. No. Non è semplicemente una questione di morale. Volevo anche riferirmi a quello che diceva l'avvocato Biondi. Cioè, tecnicamente i politici eletti dovrebbero essere responsabili direttamente agli elettori, non ai partiti. E quindi questo è anche un problema di legge elettorale, cioè nel momento in cui si dice: io per poter essere in Parlamento bisogna di essere messo su una lista, perché abbiamo un sistema proporzionale chiuso dove sono i partiti che determinano chi va in Parlamento e chi no, beh, questa è un'altra cosa su cui bisognerebbe riflettere, perché a quel punto, se diciamo abbiamo bisogno di fare più soldi perché in questo modo possiamo liberarci dai partiti, tecnicamente il sistema di democrazia rappresentativa è tale per cui sono gli elettori che decidono chi va in Parlamento, sono gli elettori che decidono chi va a rappresentarli e quindi in qualche modo sono i soldi delle tasse che vanno a pagare per lo stipendio dei parlamentari, il cui mestiere dovrebbe essere quello di rappresentare gli elettori. Allora, andiamo, poi voglio tornare dall'avvocato Biondi, andiamo un attimo al traffico, poi ci sono anche un paio di ascoltatori. Uno, riusciamo a sentirlo subito, Gianni da Milano, che pensa? Gianni, che ci ha chiamato l'800 0024 0024, che dice? Sì, buongiorno. Io dico che il problema vero non è quanto guadagnano i parlamentari, sì, o tutto il discorso, ma? Cioè, il problema vero è che noi non abbiamo nessuno, loro sono 630 parlamentari e sono tutti uguali, c'è un sistema che a noi non ci permette di vivere, no? Ma loro vivono benissimo, ma è giusto che loro lavorino, ma il problema è che non c'è nella bilancia, no? C'è due pesi, no? Loro sono 630 che fanno i loro interessi, da questa parte del popolo, degli italiani, non c'è chi li tutela. Qual è il problema? Che il sindacato non si fa sentire. Visione populista questa, molto da casta, ma da casta non, ma un po', no, più che da casta un po' qualunquista, Gianni, cioè insomma ci sono 630 che fanno i loro interessi, solo loro, e tutto il resto dell'Italia insomma che sguazza un po' nella melma, ma non lo so. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, siamo qui a chiederci se secondo voi il parlamentare dovrebbe guadagnare solo quello, l'indennità e non altro. Avvocato Biondi, eccoci. Insomma, lei è uno di quelli che dice io avrei guadagnato di più avendo fatto solo l'avvocato? Beh, io insomma ho sempre guadagnato abbastanza anche prima di fare il deputato. Sì. Però voglio dire questo, do ragione al professor Merlo quando dice che una legge elettorale che non consente la scelta e quindi c'è una lista prefabbricata dai partiti dove viene messo uno dopo l'altro i più graditi a chi governa, è una legge che a me non piace, cioè, l'ho detto in tutte le sedi in cui è stato possibile dirlo e lo dico anche ora. Viceversa non sarei così pessimista come quel signore Gianni, mi pare si chiama, da Milano, che aveva fatto questo quadro e lo fu però Rizzo, io sono stato nove volte, sì, nove legislature me ne vanto e ho trovato il fiore di Garantuomini accanto ad altri che essendo rappresentanti del popolo somigliano un po'. Però avvocato, Rizzo ha fatto una questione di conflitto di interessi, cioè, e dice, è giusto, cioè, bisogna, e dice ci sono, un avvocato dovrebbe tenere conto, se ora non parlo della legge professionale perché è una questione un po' tecnica, forse è bene che ci sia anche il selettente, magistrati, avvocati, ma io ho fatto il ministro della giustizia, so benissimo queste cose, non si risolvono mai questi problemi, proprio perché gli avvocati sono bestie individualiste, ognuno lancia la sua ricetta, insomma non c'è tanto conformismo. Ah, ho capito, ci odieranno gli avvocati, non ci sono solo gli avvocati in Parlamento, però sono bestie individualiste, l'ha detto un avvocato, insomma, quindi Rizzo accontentiamoci così. Sentiamo Paolo da Torino che ne pensa. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi, sì. Vorrei fare solo un paio di rapidissime considerazioni. Sì, è chiaro che il livello dei vostri ospiti è molto alto rispetto alla prosaicità di quello che penso io. Vabbè, ma le espongo. Allora, la prima è questa, io mi chiedo, per fare un esempio pratico, come fa la Buongiorno, che è a tempo pieno, quindi circa 8 ore al giorno, avere il tempo in quelle 8 ore di lavoro che già deve svolgere il Parlamento di studiare gli atti processuali. E questo è il tema. È il tema la vedo male che si alzi alle 5 del mattino e poi ricomincia alle 9 di sera. Comunque, vabbè. Questo è uno. La seconda, io trovo incredibile, è vero che qua in Italia pensiamo che le escort fossero delle persone che capitano in casa della gente senza essere preannunciate, ma come facciamo? Crediamo a tutto e crediamo anche che uno come Tremonti guadagni un netto di circa 1.600 euro. Qua c'è una spiegazione, ma Sergio Rizzo mi aiuterà. Effettivamente ha colpito Tremonti, ha dichiarato 39.000 euro rispetto ai 4 milioni dell'anno prima. Qui Rizzo, la spiegazione è, aiutami, che essendo entrato nel governo è uscito dallo studio, no? Dallo studio dove lavora, per evitare proprio il conflitto di interesse. Quindi questo lui, diciamo, lo fa sempre, no? E devo dire meritoriamente, lui una volta che mette piedi nel governo automaticamente lascia lo studio. E quindi questo ha abbattuto. Questo si vede nelle dichiarazioni dei redditi del Ministro dell'Economia nel corso degli anni, si vede questa oscillazione continua. Poi ha dovuto, credo, fare anche un versamento alla cassa, vabbè, ma insomma ci sono le spiegazioni sui giornali, di 137.000 euro, e quindi vabbè, c'è una spiegazione tecnica, insomma, che porta a una cifra che effettivamente risulta all'occhio molto, molto bassa, insomma, no? Sì, appunto, non bisogna stupirsi, ecco. Certamente poi c'è da dire che questi parlamentari hanno, diciamo, soprattutto quelli che fanno un lavoro professionale come Tremonti, diciamo, è anche logico che ci siano queste pressioni. No? Hai sentito Biondi dire gli avvocati sono brutta razza di individualisti, e quindi queste cose, dice, però è bene che magari nella commissione... diretti, insomma, è difficile che un avvocato rinunci a un minimo di autonomia mentale. Se invece se uno ha fatto un funzionario di partito, di impiegatuccio della politica, può darsi che vada sempre in Parlamento perché magari piglia il caffè, lo chiamano onorevole, si sente molto contento. Io sono ben contento di essere avvocato e sono stato onorato, ne ho fatto un... No, non rinuncia all'autonomia mentale e allo stipendio, no, Rizzo, all'onorato. Lo stipendio serve, perché in Italia insomma, più o meno io vedo dei dirigenti quando leggo i giornali che guadagnano tra quanti miliardi. Io non capisco che differenza ci sia se uno fa il suo lavoro, tra un'attività parlamentare che è un'attività, diciamo, stressante di lavoro, di preoccupazione se uno è onesto, e invece quella di soggetti quali, stando in un'azienda, avendo tutti i traini di vantaggio che deriva da quella, hanno uno stipendio enorme. Ma comunque io riconosco che forse sarebbe meglio che ci fosse questo vincolo, se uno fa il parlamentare faccia solo il parlamentare. E chi la deve mettere per legge? I parlamentari, che dovrebbero, vabbè, insomma, qui dovrebbero autotogliersi qualcosa. Professor Merlo, voglio chiudere con gli Stati Uniti, così poi la liberiamo, abbiamo concluso, la lasciamo andare a dormire qualche scampolo di ora. Almeno è un affare in Italia e in America fare il parlamentare per il dopo, qualcuno ha detto il trade-off, per il guadagno dopo, una volta che la carriera parlamentare è finita. Sì, decisamente, infatti, cioè, ancora è giusto non essere moralisti, non è che di colpo descriviamo gli Stati Uniti come questa isola felice dove tutto funziona perfettamente. Chiaramente esiste un motivo anche in America per fare il parlamentare, uno studio che ho fatto guarda ai redditi dei parlamentari una volta che escono dal Parlamento, entrano nel mercato del lavoro, e i ritorni sono decisamente sostanziali. Quindi, una media che possiamo dire? È un tasso di medio di crescita dei salari addizionali del 4%, quindi un ritorno per ogni anno in Parlamento più o meno un 4% di reti addizionali nel dopo. Quindi un investimento, insomma. Va bene, io professor Merlo la ringrazio dagli Stati Uniti, docente di economia alla Pennsylvania University, uscirà, ripeto, ad aprile per Egea, classe dirigente, l'intreccio tra business e politica. Terremo informati anche i nostri ascoltatori. Grazie anche all'avvocato Biondi e a Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Ci fermiamo con Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. La nostra mail è biancoenero@radio24.it. Che dire, dalla linea Oscar Giannino, par condicio si parla di questo. A domani.